Tempo di sport con Carlo Genta. Buonasera a tutti, Giorgio Druca in redazione e Pietro Lacorte in regia. Non c'è la Serie A, ma noi ci siamo naturalmente come ogni domenica, ed è un grande piacere anche perché di sport di cui parlare, di argomenti di discussione ce ne sono veramente molti. Li abbiamo impostati un po' già ieri, quando però non eravamo ancora così amareggiati, eravamo pieni di speranza perché eravamo non convinti, però insomma avevamo voglia di essere qui a quest'ora a sognare una finale mondiale. Invece l'Italia sta già giocando non per l'oro mondiale ma per il bronzo, che è comunque un gran risultato, anche se l'amarezza non ce la toglie nessuno in termini pallavolistici. Naturalmente i vostri interventi oggi pomeriggio fino alle 19, 800 24 00 24, 349 238 6666 per i messaggi. Andrea Zorzi, buonasera. Ciao, ben ritrovato. A proposito, Carlo, così approccio un po' più sportivo. L'amarezza impari a dimenticarla in fretta. Sì? Ce l'abbiamo, sì, perché poi quando sei in campo l'amarezza non ti aiuta a giocare meglio. E quindi, pur essendo giustificata, per noi che siamo seduti a un metro o per te che la vedi da casa, chi è in campo fa il massimo dello sforzo per dimenticarsi l'amarezza di ieri. Tra l'altro l'amarezza che i serbi hanno maggiore della nostra, perché sono arrivati veramente a pochissimo dalla vittoria con Cuba. E invece noi, a dire del set vinto, siamo mai arrivati veramente a sperare di poter arrivare così vicino all'oro. 6-2 intanto Italia, primo set in questa corsa al bronzo. Hai ragione tu, Andrea, e apprendo e trasmetto la lezione, però resta il fatto che caro Andrea, ieri sera, già dopo il primo set, non so tu, che ovviamente hai voci in capitolo infinitamente maggiore rispetto alla mia, però io avevo quasi intuito, no? Si era un po' capito come tirava il vento. Guarda, si era un po' capito, ho avuto un attimo di speranza, non è bello da dire, quando Bruno, il palleggiatore titolare brasiliano, si è fatto un po' di male, e invece è entrato Marlon, che è rimasto in ospedale fino a qualche giorno fa e ha gestito la partita alla perfezione. Quindi lì veramente ho avuto l'impressione che il nostro set vinto fosse quasi una specie di concessione, non voluta, una concessione dei brasiliani. Dopodiché, come ci dicevi, si era capito. L'altra cosa che ho imparato da giornalista è, per esempio, che fuori si soffre di più che in campo. Sì, perché non puoi farci nulla, cioè sei lì, vorresti, ma in campo sei impegnato invece a pensare a cosa fare, e quindi questo è, devo dire, rende più divertente giocare innanzitutto che guardare, però la sofferenza è completamente diversa. Immagina quelli dei tuoi compagni tra i fenomeni ben noti che adesso fanno gli allenatori, credo che lì sia ancora peggio rispetto alla tribuna stampa, eh? Guarda, non c'è quasi nulla di peggio, te lo dico per esperienza, che commentare in televisione una partita in cui sei coinvolto. Sì. Io ieri, adesso per varie ragioni, avevo lo stomaco stretto. Sì. E tu sai, lo stomaco stretto, diaframma contratto, e non viene neanche fuori la voce. Sì, sì, sì, sì. Io me lo posso permettere perché scrivo dopo, o al massimo parlo 2 minuti con te al telefono, cosa a cui tengo molto, però non ho grossi. Commentare con lucidità, con passione, per 2 ore una partita è veramente molto molto difficile. Un discorso è farlo con i club, certo, che è bellissimo, però non sei coinvolto. Un discorso è farlo con la nazionale, in cui ci sei dentro, in cui i ricordi personali sono tanti, ed è veramente molto difficile. Quindi se Fede Giorgi, ma anche Lucchetta e Bernardi, hanno un compito piuttosto ingrato. Andrea, voglio chiederti questo, una domanda un po' difficile, ma si poteva fare di più ieri sera? C'è qualche rimpianto oltre all'amarezza di cui sopra? Oppure arrivi alla fine e dici, come lo studente che ha fatto tutto il possibile, ha studiato tutto quello che poteva, poi la domanda carogna, l'esame va male, hai la coscienza a posto, insomma. Dunque, sul fatto che abbiano la coscienza a posto, direi proprio di sì, perché hanno lavorato col massimo impegno, hanno fatto quello che hanno potuto. Si poteva fare un po' di più, però ricordiamoci che noi tendiamo quasi sempre a immaginare quali siano le potenzialità. Cioè, forse potevano fare un po' di più, potevano giocare un po' meglio. Io non credo che abbiano qualcosa di cui rimproverarsi, perché hanno fatto in questi 6 mesi di lavoro il massimo. Le condizioni sono queste. Si poteva, per esempio, puntare su qualche atleta più giovane? È vero, e forse adesso potresti avere fatto qualche passo in avanti per la prossima squadra. Però giocare in casa un mondiale organizzato, che costa anche un sacco di soldi, obbliga Anastasia a fare delle scelte che siano un po' garantite. Certo. E a quel punto puntare su un gruppo consolidato come Vermiglio e Fei e lo stesso Mastrangelo ti dà la possibilità di ottenere il risultato minimo, che ricordiamolo era qualificarsi per queste semifinali. Certo. Dopodiché è chiaro che in questa situazione qualche critica ci può essere, o qualche altra strada che non ha percorso. Però io me la sento di difendere Anastasia rispetto all'obiettivo che si era posto, dopodiché mi piacerebbe sperare che i giovani Zaitsev, Parodi, Travizza e Marra possano diventare in qualche modo quel gruppo nuovo su cui puntare e magari andare ancora più in là di quanto non ha fatto questo gruppo. Ma non c'è un Cassano che è stato lasciato a casa in questo caso? No, No, c'è un atleta che è Martino, che è talentuoso, ma ormai da troppi anni gioca male, e quindi anche il rimpianto è limitato. E quindi non è un Cassano che ha trovato un po' la sua strada, sì, magari a fatica, magari come dice lui perdendo qualche anno di troppo. No, Martino è ancora in mezzo al guado, in cui nessuno discute della sua forza fisica e anche tecnica, ma non ha ancora dimostrato nulla. Andrea, ci sentiamo più tardi anche per vedere qui come va, perché a questa medaglia di bronzo, insomma, alla fine tra un'amarezza e l'altra ci teniamo, quindi siamo 8-10-6 se non ho visto male il tabellone segnapunti. In questo primo set siamo solo all'inizio di questa partita con la Serbia, 10-6, esatto 10-7 in questo momento, teniamo il polso della gara e poi più tardi risentiremo anche Andrea Zorzi. 10-10-2010, intreccio e incrocio magico di numeri, bravissimi colleghi di Sky tutto il giorno che hanno fatto un tabellone, so chi l'ha visto, Sky Sport 24, in cui incrociano tutti i grandi numeri 10 del calcio, della storia, con confronti anche che ve li regalo, insomma, quello soprattutto quello tra Cassano di cui sopra e Maradona, poi c'è chi è che c'era? Baggio contro Messi, insomma, questo tabellone qui. Una suggestione, tanto per divertirci un po' con lo sport. Cosa che faremo insieme questo pomeriggio fino alle 19, 800 24 0024, numero verde, e vi tengo aggiornati su Italia-Serbia. A dopo. Strade in diretta. Sulla A4 Venezia-Trieste ci sono incolonnamenti per lavori tra San Giorgio di Nogaro e La Tisana in entrambe le direzioni. Sono 7 km di coda verso Venezia. Code per un incidente sulla 22 del Brennero verso Modena tra Nogarole Rocca e Mantova Sud. Altri incidenti causano code sulla 14 Adriatica tra Pedaso e Grotta Mare verso Pescara e sulla 9 verso la Svizzera tra Como Grandate e Como Sud. Incolonnamenti per lavori sulla 15 della Cisa, sulla carreggiata verso Parma tra Pontremoli e Berceto e tra Borgotaro e Fornovo. Lavori e code anche sulla 5 Torino Ostra tra Quincinetto e Ivrea verso Torino. Per il traffico che è intenso e in aumento sulla rete autostradale ci sono code verso la capitale sull'Autosole tra Colleferro e la diramazione Roma Sud e lungo la diramazione Roma Nord. Traffico intenso, code a tratti lungo il tratto fiorentino della 1 verso Bologna e sulla 12 verso Genova a partire da Rapallo. Per il momento è tutto, Strada in diretta torna tra mezz'ora. A tempo di sport. Dunque, io resterei con voi su questa delusione di ieri sera con il Brasile, mentre l'Italia, insomma, è già tornata in campo, come vi stavo dicendo, e sta giocando per la medaglia di bronzo contro la Serbia, mentre questa sera avremo una finale mondiale a Roma che profuma di Sud America, che profuma di Caribe, Brasile-Cuba. Resterei su questo argomento anche perché ne abbiamo parlato con Andrea Zorzi, ma voglio farvi sentire che cosa ha detto ieri sera dopo la partita il nostro commissario tecnico Anastasi. Eh no, sognavo di fare la finale ovviamente, o perlomeno speravo di farla, ma alla fine bisogna anche riconoscere la bravura dei nostri avversari, sono stati più bravi nel corso di tutta la partita, sono stati più attaccati alla partita, hanno sbagliato molto meno di noi, ne hanno sbagliato tanto, alla fine questo ha pesato nell'economia del nostro gioco perché non siamo riusciti a essere fluidi per tutto l'incontro e ha vinto la squadra più forte, quindi dobbiamo riconoscerlo. Così Anastasi sul Brasile, ma anche al CT è stata fatta la domanda che ho fatto prima ad Andrea Zorzi, cioè abbiamo qualche rimpianto, è mancato qualcosa. Potevamo farcela o questo Brasile per l'Italia di oggi, che ricordiamo Italia di oggi, aspettiamo anche da Anastasi la risposta alla domanda, ma un anno fa decimi in Europa e oggi lì in cima al mondo quasi, com'è stata la crescita di questa squadra? Prima della partita col Brasile Anastasi ha detto, è una storia molto interessante, ve la racconta a bocce ferme. In attesa di quel racconto proviamo a capire che cosa manca ancora a quest'Italia per giocare una partita come quella che stasera Cuba e Brasile giocheranno per il vertice del mondo. Ma poco lucidi, forse abbiamo avuto troppi timori riverenziali nei confronti di questa squadra, dovevamo giocare più a viso aperto e non siamo riusciti invece al contrario a giocare a viso aperto, solo che alcuni giocatori sono riusciti a interpretarla al meglio, ma dovevamo essere coralmente più fluidi nel gioco e non lo siamo stati. A parlare poi sono capaci tutti, no? Come fa un nostro ascoltatore via sms 349-238-6666. Guardi che non ci credeva nessuno a questa finale, siamo seri, no, siamo seri, io ci credevo. O comunque la sognavo, come me tutti, perché insomma si giocava in casa con un Brasile che non è esattamente irresistibile al di là dei dei conti poco sportivi che il Brasile ha fatto e che questa formula autorizzava a fare, peraltro, ebbene, si poteva sognarla questa finale, non era un risultato così impossibile o così irraggiungibile. Comunque, giochiamo per il bronzo, 14-13 primo set con la Serbia, abbiamo anche un ascoltatore e poi parliamo di fantasmi. Luca da Torino, buonasera. Sì, grazie dottor Genta, mi ha fatto proprio una bella alzata, perché parlando di formula che è allucinante, va bene, è un pedalo inestricabile. Il Brasile praticamente, io spero che comunque perda, se perde arriva secondo con tre sconfitte. Sì, sì, no, questo è vero. Tre sconfitte in parte cercate, no? Perché quella con la Bulgaria, beh, cercata del tutto. E poi, insomma, i conti i brasiliani li hanno fatti, hanno detto meglio quella parte del tabellone, meglio l'Italia di Cuba e Serbia in semifinale. E dunque è chiaro che è la formula che autorizza certi giochi che, onestamente, Luca, siamo qui non seri ma onesti, avremmo fatto anche noi. Sì, sì, sicuramente, insomma, la squadra di casa deve avere un po'... così un po' di tabellone, ecco, così un po' più liscio. E un'ultima considerazione, io spero soprattutto che io ci tengo moltissimo al terzo posto, perché veramente arrivare nei primi quattro è un traguardo massimo secondo me, e spero tanto che la nazionale col terzo posto, diciamo così, tenga faccia modo di ringraziare i nostri soldati che ci hanno lasciato, ecco, almeno quello, almeno un po' di spirito patriottistico che ogni tanto ci vuole, anche se oggi a Livorno di nuovo fischi beceri e non dico altro. Ma poi, ma quando chiude uno stadio di Livorno? Guardi, questo non lo so, certo è che i fischi sono vergognosi e si commentano da soli, no? Ma è inutile stare a fare tanta demagogia. Mi domando cosa ci possa essere nella testa di uno che fischia un fatto di questo tipo. Detto che mille discorsi potrebbero essere fatti sul fatto che comunque si tratta di militari professionisti, si tratta di rischi impliciti in questo tipo di professione, eccetera eccetera eccetera. Se uno è una persona normale, non può che rimanere colpita di fronte a una cosa del genere, altro che fischiare. Quando lo chiuderanno stadio di Livorno non lo so, ma sono cose che, ripeto, si commentano da sole, sulle quali è inutile spendere altre parole, sarebbero buttate via. Grazie Luca. 800 24 00 24 è il vostro numero verde. Ho detto che, guardando l'Italia da pallavolo, parliamo di fantasmi con Filippo Maria Ricci dalla Spagna. Ciao Filippo. Buon pomeriggio. Milano è la città dei fantasmi in questo momento, in questi giorni, sai? La città dei fantasmi, perché è una Milano ancora assolata, no? Un ottobre dolce, ancora niente maglione, si va in giro e sbucano fantasmi da tutte le parti. Ogni volta che l'Inter perde c'è Mourinho che agita le catene. Quando Benitez si gira verso la panchina e cerca un attaccante, c'è il fantasma di Balotelli che fa le linguacce. E poi in questi giorni, tra Via Turati e Via Durini, c'è un altro fantasma con il numero 8, con una maglietta bianca numero 8 che non gli è mai stata bene. Sentiamo. Non si vede cacà, non si vede cacà, non si vede cacà, non si vede cacà, non si vede cacà, non si vede cacà, non si vede cacà. Questa è vecchia. Poi Cacà usciva da quel balcone con la maglia rossonera numero 22, si batteva il petto con il pugno indicando il cuore, poi l'hanno venduto perché conveniva a tutti. E adesso c'è il fantasma che gira tra la sede dell'Inter e quella del Milan. Sì, ho letto, però io da Madrid questi fantasmi li vedo meno, li vedo così un po' offuscati. E sicuramente il fatto che il signor Bosco si sia mosso, sia arrivato fino in Via Turati a prendersi un caffè, quando forse poteva farlo anche lì su Calle Velasquez, vicino dove abitava il figlio, questo sicuramente qualcosa vuol dire. Però per come la vedo io, per come la si vede qui da Madrid, la situazione, il ritorno è piuttosto complesso e per me impensabile a gennaio. Provo a dare qualche spiegazione. Il Kakà è costato 65 milioni, allora tu mi dici, beh, anche Ibra era costato così, però Ibra volevano disfarsi di Ibra e qui nessuna intenzione di disfarsi di Kakà, piuttosto può essere Kakà che ha voglia di tornare indietro. Neanche Mourinho, Filippo, neanche Mourinho? No, ecco, questa storia dei cattivi rapporti tra Kakà e Mourinho è molto italiana, qui questa voce non c'è, non trova nessuna conferma, nessun riscontro. I due si sono visti poco. gioco. Uno potrà, quello che secondo me si può dire è che Kakà non si è comportato in maniera, diciamo, principesca nel momento in cui torna dalle vacanze con un ginocchio rotto, rotto abbastanza, e quindi tornando dalle vacanze fresco fresco dopo tre giorni prende, va a farsi operare, teoricamente per amor patrio, e in questo, in questa patria dico la Casablanca, il Real Madrid, poteva farsi operare 15 giorni prima e rovinarsi le vacanze o tre settimane. Detto questo, però, lui con Mourinho praticamente non ha mai avuto a che fare. E io penso che per entrambi, sia per Kakà che per Mourinho, entrambi abbiano voglia di fare un giro uno con l'altro. Per questo dico gennaio mi sembra impossibile. Se poi il giro della giostra non va, la giostra si rompe, quello cade, allora magari a giugno se ne potrà parlare. Però i due non si conoscono, si sono visti, hanno entrambi... Mourinho è uno pratico e sì, sa che se un Kakà in buona forma gli risolve tante cose. Sì. Al momento ha Canales, giovane di 19 anni, che adesso è stato anche infortunato, e Ozil, grande talento, grande promessa, però un ragazzo di 21 anni che si vede già, comincia a far vedere una differenza tra come gioca in casa e come gioca fuori casa. Un Kakà, il Kakà che conoscevamo, se li mangia entrambi. Poi dici, magari Kakà non torna a essere quello di prima, però questo per ora non si può sapere. E quindi per me è lo stesso Kakà, tornando anche a un discorso di prima, sa che con Mourinho teoricamente può avere qualche chance di tornare a splendere come splendeva prima. Il senso che di quello che dice... No, dimmi l'ultima cosa, poi dimmi come io. Florentino Perez. Oye, Florentino Perez ha comprato Kakà come suo gioiello della corona insieme a Cristiano Ronaldo. L'ha pagato 65 milioni, l'ha difeso di fronte a qualsiasi cosa per, diciamo, tutto questo anno e pochi mesi che sono passati. Non lo vedo liberarsi di Kakà, non lo vedo cedere Kakà adesso. Sarebbe una sconfitta del suo progetto, del suo modo di pensare, di tutto quello che è stato il suo ritorno. Sì. Per cui al momento Bosco e il Cappuccino ci stanno, però più di lì per me al momento non si va, le cose bisogna essere in due. E ultima cosa, i rapporti tra le due società sono ottimi, quindi non si può, sicuramente non è che c'è lo sgarbo, non è che Kakà punta i piedi, vuol tornare al Milan e Galliani rovina il rapporto con Florentino Perez per Kakà. Milan e l'Inter? Perché c'è anche quell'altra storia, no? Il proprietario dell'Inter che è a Maicon. È a Maicon che l'Inter è rimbalzato con maggiore enfasi quanto scritto dal mio giornale, la Gazzetta dello Sport, su un possibile scambio con Benzema. Perché? Ecco, perché con Benzema sì che i rapporti sono ai minimi termini. Anche se così, per me non è un grande scambio quello Maicon Benzema. Comunque questo forse un po' parla un po' l'interista che c'è in me in tutto questo, però detto questo è rimbalzato con enfasi questo scambio qui, ma il fatto di Kakà è più lontano. E adesso anche io personalmente Kakà magari potrà non avere troppe bandiere, però non ce lo vedo con la maglia dell'Inter. Quello nemmeno io in tutta onestà, perché fosse un altro magari anche sì, però Kakà meno. Però piuttosto sui rapporti, appunto, tu dicevi giustamente, Mourinho è uno molto pragmatico, se gli servi ti fa giocare, se non gli servi ti fa sedere. Lui ha fatto sedere, non dimentichiamolo, anche Eto'o l'anno scorso a un certo punto. Secondo me però dovranno determinarsi le condizioni, non lo so, Cristiano Ronaldo... Ma ci sono che... però! Ci sono? Carlo, ci sono le condizioni, perché vuol dire il ruolo di, diciamo, di Kakà adesso è coperto da Mesut Ozil. Allora, o Ozil da qui a dicembre esplode, oppure, voglio dire, sicuramente Kakà avrà le sue chance. Perché ribadisco, Mourinho non è oltre alle pressioni presidenziali, che comunque vanno in qualche modo tenute in considerazione, e ci sarà la voglia di Kakà. Se Kakà torna dopo l'infortunio, cos'è? Non ha voglia di giocare, non ha voglia di dare il 101%. Per me ha voglia, perché sennò voglio dire, se Kakà finisce, certo lui potrà pensare di tornare al Milan o di andare all'Inter in un grande sgarbo, però voglio dire, come ci arriva, in che condizioni? Qua ormai gli anni stanno passando, la stagione scorsa un disastro, questa stagione, se vuol dire che va via, vuol dire che è stato un altro disastro, e il mondiale non ne parliamo. Sì, insomma. No? Io penso che il Ricky, come veniva chiamato in Italia, abbia una gran voglia di dimostrare qualcosa, perché qui, cioè, o in Italia ancora di più, si comincia a pensare che magari non è più come una volta. E ragazzo ha ancora quanto? 28 anni? Certo. C'è però un altro dettaglio in ballo, Filippo: il fatto che voci ben informate dicono che in estate fosse davvero vicinissimo al Chelsea. Quello però è un altro discorso. Allora, quello era prima. Prima che arrivasse Mourinho, o comunque sì, quando è arrivato, però poi c'è stato l'infortunio e non lo so, io dico che non è stato comprato qualcuno che abbia fatto saltare il banco per Kakà, per dire, no, è arrivato un altro crack giocatore come lui, e quindi questo non serve più, sì. Cioè, hanno preso Fabregas per dire, allora dici no, allora qui due galli, cioè Ozil, d'accordo, tutto quello che vogliamo, però prima di decidere che Ozil sarà il nuovo Zidane del Madrid, perché di quello si parlava, voglio dire, no, quando si è preso Kakà, ce ne vuole ancora, no? Il ragazzo ha 21 anni e un futuro da dimostrare. Io penso che l'esperienza non sia ancora chiusa, questo per gennaio, poi dopo a giugno si faranno due conti e bisognerà vedere, però anche lì come può il Milan permettersi di pagare 65 milioni e uno stipendio a 9 milioni netti? No, certo, è chiaro, deve andare via Ronaldinho, devono verificarsi le condizioni, Ronaldinho va via, allora quei soldi vengono impiegati per Kakà, eccetera eccetera. È chiaro che dar via Ronaldinho è più facile dirlo che farlo, perché il mercato di Ronaldinho porta soltanto ed esclusivamente in questo momento ai Galaxy a Los Angeles, non c'è altra, c'è nessun altro che vuole, questo è quello che è stato definito ipse dixit il Premier, il giocatore più forte della storia del calcio. Trovategli un acquirente al giocatore più forte della storia del calcio oggi, con tutte le critiche che potete farmi e che mi farete tra poco. Grazie Filippo Maria Ricci, è sempre un piacere. Grazie Filippo Maria Ricci, un abbraccio. Torniamo sul fantasma Kakà più tardi, magari anche con voi, con le vostre sensazioni. 800 24 00 24, approfondiremo il discorso e vi aspettiamo qui a dopo. Provate a riflettere su tutti i posti in cui siete stati oggi. Casa vostra, la metropolitana e il treno. Il bar, la scuola di vostro figlio. L'ufficio, la riunione delle due, quella delle sei. Facebook, il sito di notizie, quello del meteo. La banca, la posta, la palestra, l'automobile e di nuovo a casa. Ma voi, esattamente, dove siete? Io sono qui. Io sono qui, di Matteo Caccia. Da lunedì a venerdì, alle 16, su Radio 24. Fiera Milano in forma. Smau ti aspetta a Fiera Milano City da mercoledì 20 a venerdì 22 ottobre. Tutta l'innovazione che serve alla tua impresa per sviluppare il tuo business e affrontare le sfide del mercato. 500 espositori, 200 workshop per manager e imprenditori, oltre 100 anteprime di prodotto. Iscrizione obbligatoria su smau.it. Davanti a una panda con nuovi interni, nuovi colori e nuovi motori Euro 5 si resta incantati. Ati. Solo fino al 31 ottobre puoi avere la nuova gamma Euro 5 da 7.500 euro più 60 mesi di finanziamento anticipo zero e interessi zero. Panda, auto ufficiale per fare quello che ti pare. TAIG 310, salvo approvazione Sava, iniziativa valida in caso di rottamazione fino al 31 ottobre. Non mi sposi più. Ma Pucci, ho tradito la tua fiducia. Mai. Pucci, tu sei il solo a non saperlo. Per un'azienda avere corrette informazioni sui propri partner è essenziale. Credit Reform Italia, con il servizio rapporto classificato, ti assicura l'informazione commerciale su tutte le aziende italiane con un clic. Credit Reform è leader in Europa per le informazioni commerciali online. Meglio saperlo prima. www.creditreform.it, numero verde 800 425 325. Torre di controllo, siamo a potenza G4, ci serve più velocità. Aumentiamo a G5, possiamo fare di meglio. Controllo, potenza G7, ce l'abbiamo fatta, siamo al settimo cielo. Manda in orbita i tuoi affari con il nuovo server HP ProLiant DL385G7 con processore AMD Opteron 6100 che ha in sé l'efficienza di 23 server e risparmia fino al 96% di energia. Con G7 il tuo business prende il volo. Scopri di più su radio.hp.com. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Maltempo domani nelle regioni del centro-sud, Sicilia compresa, con piogge, rovesci e temporali localmente anche di forte intensità. Piogge che dal pomeriggio si estenderanno anche all'Emilia-Romagna. Bel tempo nel resto del nord, con qualche annuvolamento su Basso Piemonte e Liguria. Migliora in Sardegna. In serata i fenomeni si esauriscono a partire dalle regioni tirreniche e dalla Sicilia. Le temperature sono in calo al centro-sud. Per il meteo è tutto, altri dettagli su meteo.it. La qualità è una pagina che Flu scrive ogni giorno, come con duetto, letto singolo, doppio e divano. E il suo rivestimento è disponibile in oltre 200 varianti, sfoderabile e lavabile, in tessuto, pelle o ecopelle. Tuo a 2.300 euro. Vai su flu.it. Diario di bordo, hai presente la card Superstar Quay? Quella nominativa con bonus d'ingresso e 20 punti per il compleanno. 20? Come gli anni che mi sento. Ho detto 20, non 120. Kuwait, trovarsi meglio. Info su kuwait.it. Siamo l'Italia delle idee. L'Italia che non si arrende. L'Italia che ha voglia di fare. Gente seria, gente tosta. Siamo l'Italia che reagisce. Siamo l'Italia che sfida le difficoltà e che sceglie CNA, la forza che sostiene e fa valere le ragioni degli artigiani e delle piccole e medie imprese. CNA e le imprese, valore d'insieme. www.cna.it. State per sentire 299 cavalli al massimo della loro potenza. Oggi 299 cavalli di Lexus RX 450H Full Hybrid pesano solo 140 grammi di CO2 nella nuova versione a trazione anteriore. E con full leasing di Lexus Financial Services, RX può essere tua a 440 euro al mese. TAG 7,35%. Fogli informativi in concessionaria. Quest'annuncio è dedicato a tutti i lettori de Il Sole 24 Ore che hanno un iPad o un iPhone. Se non l'avete già fatto, andate sull'App Store e scaricate gratis la nuova applicazione del Sole 24 Ore. Tutti i giorni potrete sfogliare il quotidiano dalle 7 del mattino. Oggi l'accesso al quotidiano è offerto da Impresa Semplice di Telecom Italia. State ascoltando un programma offerto da Eni. A tempo di sport. Purtroppo alla Serbia il primo set in questa finale per il bronzo mondiale, secondo set da poco iniziato, conduco i nostri avversari 3-2. Rubiamo qualche istante, è impegnato con diretta a rotta di collo con Sky Sport 24. Alessandro Alciato, buonasera. Buonasera a voi. Senti, in questa, partendo dalla nazionale che tu stai seguendo minuto dopo minuto, in questa Coverciano piena di sole, oggi novità? Guarda, ti dico che c'è in corso in questo momento l'allenamento a porte chiuse. Quindi ti dico anche però cosa sta provando Cesare, sì, Prandelli, così senza ombra di dubbio sta provando una formazione molto simile a quella che ha giocato in Irlanda del Nord a Belfast, con qualche differenza, cioè Zambrock al posto di Cassani come terzino destro, sì, al centro Bonucci non sta benissimo, comunque sta giocando con la squadra delle riserve, al suo posto c'è Castaldello, il centrocampo è lo stesso, quindi De Rossi, Pirlo e Mauri, e davanti ha messo insieme Cassano, Pazzini e Borriello. Non mi chiedere il modulo perché non si capisce, nel senso che non è un rombo, non è un 4-3-3 nel modo classico in cui lo intendiamo, perché i tre giocatori davanti si cambiano posizione in continuazione e diciamo che non è un modulo fisso. Comunque dovrebbero giocare quei tre insieme dal primo minuto, però, se l'allenamento è indicativo, ma di solito l'allenamento giorni prima è molto indicativo, certo, soprattutto se a porte chiuse. Ah, però, quindi Pazzini con Borriello e Cassani, un misto griglia interessante, quanto un po' improbabile dal punto di vista tattico. Vedremo. Non arrampicarti sugli alberi, però, Alessandro. Praticamente in tempo reale. Che ci teniamo a te, non arrampicarti sugli alberi. Esattamente. No, io ti ho chiamato. Allora, quest'estate sei venuto qui a trovarmi, hai fatto un programma con me, è stato molto bello, piacevole, divertente. Ci siamo divertiti, insomma. Quel giorno mi hai detto: Kakà, se non si faceva male, giocava nel Chelsea in questo momento. Confermo. Di Milan tu sai tutto, di Chelsea sai tutto. Cosa fa Kakà, il cui fantasma si aggira per Milano in questi giorni? Diciamo che se va via, e questa è la cosa che devo capire, perché insomma facciamo un passo indietro. Lui al momento sta pensando solo a guarire, perché non è esattamente sicuro della data in cui tornerà, e qualche preoccupazione ce l'ha anche lui per quanto riguarda le sue condizioni fisiche. Allora per il momento lui pensa soprattutto a guarire. Nel momento in cui guarirà, io credo che prenderà in considerazione qualche ipotesi, e sono le tre ipotesi di cui si parla molto. Diciamo che nella sua testa il Chelsea è sempre la prima scelta, Milan seconda, l'Inter terza, non perché l'Inter sia meno forte, anzi è campione d'Europa, ha vinto tutto ed ha una grande squadra, ma perché lui considererebbe un tradimento andare dal, dal Milan all'Inter, di fatto passando per il Real Madrid. A Ibrahimovic non interessa nulla, mentre Kakà, insomma, qualche esame di coscienza se lo farebbe, però il Chelsea resta sempre in cima ai suoi pensieri nel caso dovesse andare via, e questo te lo assicuro perché lo so per certo. Dubbi non ne avevo. Ti chiedo ancora una percentuale, che è sempre la cosa più difficile. Che percentuale ha Kakà, secondo te, di andare via dal Real Madrid? Guarda, io sinceramente questo non lo so, ti direi 50%, ma è una banalità assoluta, perché non lo sa anche lui, ci sta pensando, ma non sapendo la data in cui rientrerà, non sapendo le sue condizioni fisiche, è un po' in difficoltà, nel senso che non sa poi quando tornerà, se ci sarà spazio, se giocherà Ozil, quale sarà il rapporto con Mourinho. Ti direi 50%, ma mi rendo conto di essere molto banale. E forse invece 100% al Chelsea, con quale percentuale? Fosse al 100% al Chelsea, diciamo al 70-20 Milan, e anzi, sì, 70-20-10. 70-20-10, 70-20-10. Mi sa che 70-30 e sì. 10. Sì, mi sa che abbiamo le idee chiare su questo punto, sì. ed è anche la sensazione che ho io. Buon lavoro e sta giù dagli alberi, Va bene, senza farmi male, promesso. Grazie Ale, un abbraccio. Ciao. Grazie ad Alessandro Acciato. Dunque, avete sentito, al di là di Kakà, che alla fine adesso è un gioco, però il mio pensiero, la mia sensazione è proprio questa: se andrà via dal Real Madrid, con tutti gli interrogativi del caso, e secondo me Kakà dal Real Madrid va via, perché ho questa convinzione, perché sono convinto che con Mourinho le cose non possono girare come lui sogna o immagina, a meno di eventi imprevedibili, ad esempio un infortunio di Cristiano Ronaldo o Ozil che davvero non riesce a sfondare. Ho l'impressione che Real Madrid di Mourinho sia già fatto e che Kakà potrebbe entrare come problema più che come problem solver, come valore aggiunto in questo Real Madrid. E secondo me, se va via da Real, va proprio al Chelsea di Carletto Ancelotti, come doveva essere quest'estate, perché questo è praticamente certo, l'avete sentito ma lo sappiamo già. 800 24 00 24, numero verde anche sulla nazionale, che come avete sentito ora da Alessandro Alciato sta provando un modulo molto diverso, un'idea molto diversa rispetto a quella che abbiamo visto annoiandoci, per la verità, e lo confermo, come confermano i dati d'ascolto, e poi ne parliamo, perché Alberto Costa ha scritto un punto molto esauriente sul Corriere della Sera di oggi, e che tiene conto dei numeri televisivi. Un'Italia che è partita col botto, con la grande speranza, anche dal punto di vista televisivo e dati d'ascolto, e che poi questa speranza, questa voglia di novità, questa illusione è andata un po' via via scemando, anche leggendo i dati, insomma. Ieri dicevo, ma la sensazione venerdì sera nello spegnere la televisione alle 11 di sera è stata, almeno il mio pensiero è stato questo, vabbè, devo guardarlo per ragioni professionali, però potendo scegliere quelle due ore magari si poteva fare dell'altro. Non mi sono divertito l'altra sera, e come me credo anche molti italiani che infatti hanno fatto click con il telecomando. Prima però parliamo con gli ascoltatori. Mauro da Torino e Maurizio da Cuneo. 800 24 00 24, numero verde. Mauro, buonasera. Buonasera e grazie di aver chiamato. A lei. Volevo tornare prima all'argomento, sono di Torino e di fede nerazzurra. E riguardo l'argomento Kakà, sì, ritorna a Milano, su quale sponda, sì, eccetera. Allora, secondo, da dilettante, cioè, leggendo semplicemente i giornali, mi sono fatto le seguenti idee. Intanto che il mercato di gennaio a livello europeo sia comunque ancora molto da definire, e non sono tanto le strategie di mercato quanto gli infortuni che possono cambiarlo, sì, il mercato. Oltre, cioè, che gli infortuni e i fatti, no, certo, cioè, questo sì, ma anche i fatti contingenti, perché Mauro, lei da tifoso interista saprà bene che, al di là dello scherzo, del fantasma di Balotelli che fa le linguacce, però davvero all'Inter da questo punto di vista c'è un buco rispetto all'anno scorso, no? Perché c'è un Balotelli in meno e niente è stato aggiunto, perché non mi venite a raccontare che è lo stesso avere Biabiani o Coutinho quando si tratta di cambiare la partita, o quando Milito si tocca una gamba, anche solo per mettersi a posto il pantaloncino, si mettono tutti sul chi va là, San Siro. E quindi, insomma, è chiaro che all'Inter qualcosa manca, Balotelli, e non è stato rimpiazzato, quindi gli acquisti di gennaio saranno dettati, lei ha ragione, da fatti contingenti, da infortuni e quant'altro, ma anche dalla prova dei primi quattro mesi della stagione. Sì, è vero. E tra l'altro, da quello che io ho visto, da quello che mi è sembrato leggere sui giornali, sono perfettamente d'accordo col giornalista, per ragioni di colori, di affezione. Temo che la squadra europea che, in cui voglia meno andare Kakà eventualmente a gennaio sia proprio l'Inter. Sì. Sì. Anche perché in ogni caso nell'Inter ci sarebbe un diretto concorrente, cioè Schneider, se continua a giocare in quel ruolo lì. Mm. Sì, detto che Mauro, lei non crede comunque che Schneider e Kakà potrebbero giocare insieme? Non crede? Ma io credo di sì. Non nel ruolo che gioca rispetto a Schneider, dovrebbero mettere Kakà trequartista e Schneider punta laterale di sinistra, cioè che rientri col destro a tirare. Ma per lui non sarebbe un gran problema, anche perché l'ha fatto molte volte quel ruolo. Poi è un giocatore con entrambi i piedi ed è un giocatore tatticamente molto versatile. Noi l'abbiamo conosciuto in questa veste. È vero. Mm. E ultimissima cosa, mi permetterei di dissentire col giornalista invece sul interista anche lui sul della Gazzetta dello Sport, Filippo Maria Ricci. Cambio Maicon Benzema. Io il Benzema che mi ricordo visto l'Olympique di Lione era un giocatore che andrà a prendere a piedi adesso. Anch'io, sa. Anch'io. No, ma non fosse altro per in valore assoluto no, cioè se mi dici Maicon al top e questo Benzema, io credo che Maicon non sia più al top, quindi esatto. Credo che sia un giocatore la cui cessione potrebbe non essere una cattiva idea visto che è ancora molto quotato. Benzema è molto giovane, è un giocatore di grande talento con doti caratteriali, diciamo così, da affinare, però è un giocatore che a questa Inter, stando il fatto che c'è quel buco in panchina, il fantasma di Balotelli che fa le linguacce quando c'è Benitez che ha bisogno di una punta di scorta, beh, in queste condizioni io Benzema cercherei di prenderlo, sicuramente. Non so se lo pensate anche voi, oltre a me e a Mauro, 800240024, traffico, poi Maurizio. Strade in diretta. Circolazione sostenuta lungo le principali direttive per i rientri in direzione delle città. Sulla 4 Venezia Trieste ci sono incolonnamenti per lavori tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana in entrambe le direzioni. Sono 8 ora i chilometri di coda in direzione Venezia. Code di 2 km per un incidente sulla 22 del Brennero verso Modena tra Nogaro Le Rocca e Mantova Nord. Incolonnamenti per lavori sulla 15 della Cisa, sulla carreggiata verso Parma tra Prontremoli e Berceto e tra Borgotaro e Fornovo. Lavori e code anche sulla 5 Torino Osta tra Quincinetto Ivrea verso Torino e sulla 9 Lainate Como Chiasso tra Origgio e l'innesto per la 8 Milano Varese verso quest'ultima. Per il traffico ci sono code in direzione Roma sull'Autosole tra Colleferro e la diramazione Roma Sud e anche lungo la diramazione Roma Nord. Traffico intenso con code a tratti anche lungo il tratto fiorentino della 1 verso Bologna e sulla 12 verso Genova a partire da Rapallo. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento tra mezz'ora. A tempo di sport. Serbia 15, Italia 12, secondo set e il primo l'hanno vinto i nostri avversari, quindi Serbia un set a 0 e 15 a 13 in questo momento sull'Italia, in questa finale che vale il bronzo mondiale, un bronzo cui, se permettete, nel quale, se permettete, conto e spero, insomma, perché sarebbe comunque un grande risultato. Maurizio da Cuneo, buonasera. Buonasera a lei, a dica. Tutti. Buonasera. Io volevo infilarmi in piccoli e leggeri passi per parlare del fenomeno Novara. Bravo, fa benissimo. Ma non tanto dal punto di vista sportivo, che per noi è importante, ma dal punto di vista di rapporti tra i tifosi. Sì. A Novara mai un coro fuori posto. Bambini, anziani, coppie, famiglie. Le chiedo questo, il Novara è il nuovo Chievo, perché da molti è stato detto, è stato fatto questo parallelo, questo paragone. Sì, vedremo. Io volevo fare gli complimenti ai tifosi del Portogruaro che hanno applaudito tutti quanti, Gonzales che quest'anno ha fatto un esplorato fantastico, in particolare questa domenica. Senta, ma ne approfitto, mi parli un po' di questo Gonzales, di questo giocatore. È un ragazzo che ha dei piedi d'oro, che già dall'anno scorso si vedeva e si intuiva già le grandi capacità realizzative, è un sudamericano, quindi con tutte le cose positive. Lo conosco poco, l'ho visto poche volte e solo quest'anno, l'anno scorso no, che tipo di giocatore è? Chi ricorda? No. Dove gioca? Come gioca? Sono quei giocatori rapidissimi, quelle punte che non ti accorgi che ti sbucano dalle spalle e quando ti ha fatto il gol ormai è troppo tardi. Mm. è interessante. Lui e Bertani sono veramente due fulmini, sì, appoggiati da tutta una squadra che corre moltissimo, sì, che è in appoggio a questa situazione. Sì, quindi non è improprio dire, è una squadra vera che è passata con la stessa ossatura dalla Pro 1 alla Serie B. In questo ricordasi il Chievo, è una squadra che ha la stessa ossatura, lo stesso allenatore Tessar, bravissimo, è una squadra che gioca a memoria e in questo momento sta facendo valere questo vantaggio rispetto alla concorrenza. Poi lei fa benissimo a sottolineare anche l'ambiente del Novara, che, ma lo sappiamo per averlo seguito in questo primo scampo di stagione, per aver letto le cronache, eccetera, è un ambiente come dovrebbe essere quello del calcio. È il modo giusto di vivere il calcio. In più, se ci sono anche giocatori che ne siano 4 partite, come ha fatto oggi Gonzales, beh, allora si può andare avanti per un po', io credo, a sognare dalle parti di Novara. La ringrazio Maurizio, 17 Serbia, 14 Italia, secondo set, e il primo l'ha vinto la Serbia. Ciro da Napoli, buonasera. Buonasera a lei. Volevo ritornare un attimino sulla partita di ieri sera, che mi ha fatto tenere un magone tutta la giornata. Sì, quella persa col Brasile. Sì, quella persa col Brasile. Da grosso appassionato di pallavolo ho seguito tutto il campionato. Secondo me abbiamo toccato l'apice con gli Stati Uniti. Sì. Però ieri sera l'approccio secondo me è stato un attimino sbagliato. Ho la sensazione che siamo entrati in campo. Ma già quindi secondo lei questo Brasile era battibile da quest'Italia? Perché c'è chi mi ha scritto prima, ma lo sapevamo tutti, inutile star lì a raccontarci delle frottole, col Brasile non si poteva far nulla. Secondo me no. E lei ha ragione nel dire quel primo set è quello che ha indirizzato la partita. Io credo che sia una questione proprio di approccio, di iniziare la gara già consapevoli che fosse un fatto compiuto. Questa era è stata la mia sensazione, che poi me la sono portata tutta la notte e tutta la giornata a presto. Ma si dia pace, ma piuttosto adesso sento dei clacson in sottofondo, quindi vuol dire che non è a casa a vedere Serbia e Italia. No, io in questo momento sto lavorando, io sono al lavoro, al mio ufficio qua a Napoli. Napoli è una città grande, quindi praticamente... intorno a me. Lei contava di impegnare la serata questa sera dalle 21 e di vedere Italia-Cuba finale dei mondiali, invece è al lavoro e Massimo De Rebeff, l'Italia non è in finale ai mondiali, sta giocando contro la Serbia in questo momento, perdendo 18-15 nel secondo set. L'ho sentito. E mi dispiace da dire. Vabbè, poi chiaramente quella finale del terzo e quarto posto mi fa venire in mente quella famosa finale dei mondiali del 90. Non quella del 90 a Napoli, il mondiale di calcio, quella che perdemmo col Brasile 2-1 con quei due gol, sì, da lontano, che Zoff, quelli del 78, Nelinho e Dirceu, sì, con l'Olanda praticamente eravamo lì per arrivare in finale dei mondiali e beccammo quei due gol da lontano, mi pare fosse Anna, e non ricordo chi, che ci segnò da 40 metri. Anna e Brandt, che nel primo tempo segnò un'autorete, ma qui stiamo facendo del nozionismo da trivial. Piuttosto, Ciro, a me ricorda molto di più Italia 90, e poi l'ha rimosso perché da buon napoletano quel mondiale, insomma, quella finale ce la porto via Maradona, e quindi io capisco come dalle parti di Napoli si sia detto e si dica tuttora, vabbè, meglio lui di un altro, no? È tutta un'altra storia. No, secondo me ce la porto via Zenga. Ce la porto via Zenga, sì, in parte è vero. In parte è vero, perché è cronaca, insomma, Zenga con quell'uscita maldestra di fronte al ciuffo di Caniggia. Lei ha ragione, grazie a Ciro, buon lavoro naturalmente. Serbia 20, Italia 16, Stefano da Bergamo. Ciao Carlo, complimenti per trasmissione, grazie. E soprattutto complimenti per il fatto che si parla finalmente di pallavolo su una radio importante come Radio 24. Pallavolo, guarda, mi sembra, io ho telefonato solo per questo, perché adesso non ci voglio credere, è impossibile. Ma saprai che Andrea Zorzi è della compagnia da tempo, lo so. Andrea lo conosco benissimo, ho la fortuna di lavorare con lui, quindi figurati, so che tipo è. No, io sono tra quelli che dice che non potevamo vincere ieri sera, nel senso che noi siamo stati in un certo senso catturati da questa nazionale, perché ha vinto tanto, però al tempo stesso sono state secondo me delle vittorie un po' bugiarde. Si è parlato tanto e si è letto tanto di questa formula dei mondiali, che è stata un po' filo italiana, no, per i sorteggi, e se vai ad analizzare le partite che abbiamo vinto a parte quella con gli Stati Uniti, noi abbiamo sempre giocato con delle nazionali che erano, non dico nettamente più deboli di noi, ma sicuramente battibile. Questo un po' ci ha indotto, sì, a pensare di poter battere questo Brasile, che ci ha messo anche del suo, perché contro ad esempio la Repubblica Ceca ha faticato tantissimo. Anch'io guardandola alla, certo, televisione ho pensato, sai, forse Stefano, stavolta ce la facciamo. Esatto, probabilmente da quello che derivava, non so se un'incosciente fiducia, quella che avevamo un po' tutti ieri, oppure questo ha alimentato la speranza, il sogno. Perché il Brasile, al di là di questa formula truffaldina, no? Che ha creato tante partite fuffa, che ha creato tante partite inutili, tante partite scontate, tante partite pilotate, biscottate, come volete voi, però al di là di questo, appunto, il Brasile in altre gare aveva dato la sensazione di non essere irresistibile. Lo stesso Anastasia aveva detto, questo Brasile qualche smagliatura ce l'ha e lì vedremo di infilarci. Però, sai, il sogno è durato lo spazio di qualche pallone, perché ieri, come si diceva prima con Andrea Zorzi, non so se condividi, dopo il primo set avevamo già capito come andava a finire. Sì, ma perché poi il problema della nostra nazionale, purtroppo, a parte il fatto che, allora, l'abbiamo detto, loro sono più forti, tutto quanto, noi, questa nazionale in particolar modo, soffre ancora un po' di evidenti limiti di personalità. Se tu vai a guardare ieri sera, quello che può considerarsi uno dei nostri giocatori simbolo, che è Valerio Vermiglio, anche ieri sera Valerio ha sbagliato partita. E quando ti manca il palleggiatore, lo sai benissimo anche tu, la pallavolo, sì, si basa su la diagonale palleggiatore opposto. Andrea, avere un Andrea Zorzi, per dire, nella nostra nazionale, averne, cioè, di Andrea Zorzi, perché Andrea è veramente uno che quando giocava avrebbe spaccato con la testa di marmo, certo, capito? Però come tu dici, Andrea Zorzi aveva Paolo Toffoli o aveva Fefe De Giorgi che gliele mettevano lì come voleva. Se quell'asse non funziona come ieri sera, non è riuscito a funzionare, allora diventa molto complicato, hai ragione. Stefano, ti ringrazio, noi ci dobbiamo fermare un attimo per il giornale radio, subito dopo torniamo, abbiamo come sempre, come ogni domenica, un'altra ora da passare insieme. Vi aspetto qui, 800 24 00 24, il numero verde. Dunque torniamo insieme per un'altra ora di A Tempo di Sport, 800 24 00 24, il vostro numero verde. Io stavo guardando l'Italia della pallavolo, secondo set che purtroppo è scivolato via così come il primo, ed è stato vinto dalla Serbia, che dunque conduce 2-0 in questo terzo set che è iniziato, e siamo 8-7 per i nostri avversari. Dunque non sta andando benissimo questa finale per il bronzo. Tra poco torniamo a parlare di calcio, del nuovo modulo della nazionale che, come ci ha raccontato prima Alessandro Alciato, potrebbe essere pirotecnico, forse strampalato, non so come lo vedete voi, in attacco con le due prime punte, Borriello e Pazzini, tutte e due insieme contro la Serbia ferita, come ha detto Prandelli ieri, a Genova, con Cassano a sostegno, però mica male. 800 24 0024 per le vostre opinioni o i vostri messaggi, al 349 238 6666. E c'è chi scrive: da interista, oltre che a vendere chi sappiamo, penserei a puntellare prendendo uno come Maresca, poca spesa e tanta resa. Scrive Massimiliano: non so Maresca, all'Inter secondo me c'è bisogno di un Benzema, magari, su questo nome sono un po' più d'accordo. Però sul mercato, non solo su Kakà, torneremo più tardi, già ve lo anticipo. Intanto, mentre siamo 9-9 in questo momento con la Serbia nel terzo set, ma la Serbia conduce 2-0 nella finale per il bronzo, farei un'altra parentesi sulla palla non picchiata ma ovale. Giacomo Bagnasco, buonasera. Buonasera Carlo, buonasera a tutti gli ascoltatori. Primo weekend di Coppe Europee. Guarda, poteva andare meglio, ma in sostanza qualcosa di positivo è arrivato, e diciamo che è arrivato in extremis, perché abbiamo visto tra giovedì e venerdì le solite sconfitte nette, a partire dall'Heineken Cup con gli Aironi che hanno perso dall'Ulster a Belfast 36, una partita giocata in contemporanea con quella della nazionale di calcio, stesso luogo e stessa ora, e poi si è andati avanti con il Petrarca Padova che ha perso in Francia a Brive 32-6. Prima ancora, per dire la verità, la squadra parmense dei Crociati aveva perso sempre in Francia a Parigi dallo Stade Français 57-6, quindi sconfitte pesanti, mete subite in maniera considerevole, neanche una meta segnata. Ieri c'è stata un'altra sconfitta di questo genere, forse ancora più grave, perché è arrivata in casa con Rovigo, che ha perso dal La Rochelle, l'altra formazione francese, 38-3. Poi però sono venute le note positive, in assoluto una vittoria. In Challenge Cup i Cavalieri di Prato, all'esordio assoluto, prima squadra toscana che abbia mai giocato una Coppa Europea, hanno battuto il Connacht 23-21, Connacht formazione irlandese, che in Celtic League è alla pari con il Benetton. E veniamo al Benetton, che ha perso dall'Ester giocando in casa a Treviso, ha perso 34-29 per una meta che è arrivata a due minuti dalla fine, e però è stato in partita tutto il tempo, ha giocato una partita importante soprattutto con la Mischia. Insomma, da questo Benetton arrivano conferme dopo il buon avvio in Celtic League. Certo, è una squadra che ha giocato quasi sempre in casa, però in Celtic League ha vinto 3 partite su 5, ed è una squadra che evidentemente si è portata più avanti rispetto agli Aironi, si è preparata negli anni per questo appuntamento della Celtic League, e adesso qualcosa di più raccoglie anche in Heineken. Diciamo che l'anno scorso il Benetton aveva esordito in Heineken battendo i campioni di Francia del Perpignan, ed era un risultato storico. Questa volta giocava contro i campioni d'Inghilterra, nei quali gioca tra l'altro anche Castrogiovanni, nazionale azzurro, che ieri ha segnato una meta. Insomma, impresa sfiorata, però un buon Benetton, da segnalare le due mete e il drop di questo Tommaso Benvenuti, ragazzo ventenne che veramente si sta imponendo all'attenzione. Tutto sommato, per come si era messo questo weekend, le cose sono andate un po' meglio in assoluto, però quando ci affacciamo in Europa e le prendiamo, è sempre dura, le prendiamo ed è ancora più dura naturalmente adesso per le formazioni che giocano in eccellenza, perché sappiamo che hanno perso non hanno le armi. Certo, non hanno le armi, mentre Benetton, è l'indicazione positiva di questo inizio di stagione è questa, è competitiva a questi livelli, anche se ancora i risultati non arrivano. Però quando non ci riesce a vincere, Benetton ci va vicino, ed è questa la nota che ci fa meglio sperare in questo inizio di stagione ovale. Grazie a Giacomo Bagnasco. Serbia 13, Italia 12, terzo set 2-0 per la Serbia, ma l'Italia che in questo terzo set resta in partita. E raccolgo e vi giro anche la segnalazione via SMS di Vittoria da Milano, perché merita menzione. Fa menzione, appunto, Vittoria, al minuto di silenzio sembrava avessero tolto l'audio alla TV. Brava Vittoria, l'ha sottolineato, e io vi giro questo messaggio. Luca da Torino, buonasera. Buonasera Carlo. Dica. Volevo parlarle, ritornare, purtroppo il fatto di parlare di altri sport mi riempie di gioia, però volevo ritornare al calcio. Volentieri, purtroppo. Volentieri. Cioè, volevo parlarle... Non è peccato, Luca. Sì, però tuttavia è bello sentire parlare di pallavolo, rugby. Volevo chiederle cosa ne pensava rispetto, sentivo parlare di Benzema, di Inter e Milan. Io sinceramente, da tifoso juventino, sono molto preoccupato per il proseguo della stagione della Juventus. Nel senso che quel Quagliarella che non può giocare in Europa League, considerando l'Europa League un obiettivo della Juventus doveroso, mi preoccupa tanto. E anche il fatto che Aquilani, per di più, non possa giocare. Benzema non potrebbe servire davvero a una squadra come la Juve, piuttosto che Dzeko. Io sono molto più convinto di Benzema, che sia un attaccante che si adatti meglio al gioco italiano. Sì, sì. Cosa ne pensa? No, penso... Allora, io tra i due prenderei Dzeko, che è più pronto, potendo. Costa, secondo me, anche di più, però è un affare molto più difficile da fare. Fosse una Juventus, Benzema lo prenderei al volo, anche perché lei fa bene a notare il fatto che in Europa League ci sono dei giocatori non utilizzabili e importanti, ma anche il fatto che alla fine, diciamo, cioè, Amaury non è un giocatore affidabile, perché ne ha sempre una, insomma, e anche quando o no, Luca? Sì, assolutamente. Iaquinta è anche abbastanza fragile, si è dimostrato negli... Iaquinta è pure abbastanza fragile, è una prima punta più no che sì, non è un goleador, non è uno che garantisce pericolosità. Alla fine il problema vero della Juventus qual è? E non so se è d'accordo con me, il problema vero della Juventus è che davanti, tolto Krasic, che dobbiamo ancora capire quanto sia forte, no? Perché in questo inizio di stagione è la nota migliore della Juventus intera, però... Non credo possa essere un giocatore da 20 gol, né tantomeno un giocatore da 3 gol a partita, come è successo recentemente. Nella Juventus non c'è nessuno che fa paura là davanti. Perfettamente d'accordo. Dunque uno come Benzema lo prenderei al volo. Comunque una prima punta, uno dal gol facile, un erede di Trezeguet, mettiamola così. Alla Juventus serve come il pane, inutile girarci intorno. Benzema è stato accostato alla Juventus, Benzema è in uscita comunque dal Real Madrid e credo sia un giocatore su cui a gennaio si farà un discreto mercato, ma poi torniamo a parlarne con cognizione di causa. Adesso il traffico. Strade in diretta. Traffico della domenica pomeriggio su strade e autostrade, con i rientri verso le città e rallentamenti attorno ai grandi centri commerciali, e non mancano lavori e incidenti. Ci sono lunghissime code per lavori sulla 15 della Cisa verso Parma, da Aulla fino a Fornovo. Ci sono code per lavori sulla 4 Venezia Trieste, nelle due direzioni tra San Giorgio di Nogaro e Latisana. Le code verso Venezia in particolare hanno raggiunto gli 8 chilometri e a causa di un cantiere più rallentato del solito il traffico diretto a Milano sulla A9, la Lainate Como Chiasso. È un incidente che ha reso necessaria la chiusura della tangenziale est di Roma verso la Salaria, tra via dello Scalo di San Lorenzo e piazzale della stazione Tiburtina. Intorno alla capitale il traffico è a tratti fermo sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare dall'innesto con la A24 Roma-L'Aquila-Teramo fino all'Appia, anche a causa di un incidente. Noi torniamo tra mezz'ora. Promo 24. Ci si domanda che impatto avranno le notizie di oggi sulle valute mondiali e per questo bisogna poter dare valore alle proprie idee con il trading sui CFD. È possibile guadagnare operando al rialzo e al ribasso su migliaia di mercati, azioni, indici, valute e materie prime, iniziando a fare trading sui CFD con IG Markets. La piattaforma di IG Markets non comporta alcun canone di utilizzo, dà accesso a oltre 20 borse internazionali 24 ore su 24, offre notizie in tempo reale, un pacchetto grafici avanzato e un corso online gratuito per imparare tutto sui CFD. IG Markets è il primo in Italia per il trading con i CFD. Demo gratuita su www.igmarkets.it. A tempo di sport. Serbia 18, Italia 14, siamo nel terzo set e purtroppo i primi due li hanno vinti i serbi, che sono ora vicinissimi alla medaglia di bronzo, questa naturalmente pallavolo. Dzeko, Benzema, Kakà, ma Pastore non lo vuole nessuno, Pastore lo vogliono tutti, però il Palermo, però Zamparini, che mica è fesso, aspetta di venderlo al miglior offerente non a gennaio ma alla fine della stagione, perché se va così ogni mese il valore cresce, ogni partita il valore cresce, è un titolo sicuro secondo me ormai Pastore. C'è lo juventino Pieragusto Stagi in linea. Buonasera Pieragusto. Ciao Carlo. Lo vuoi Benzema? Vuoi un attaccante? Sono d'accordo con voi che ci vuole un attaccante, una prima punta, questo è chiaro. Poi Benzema, qualcun altro, quello non sono così addentro alle cose calcistiche. Mi sembra un buon giocatore, potrebbe essere una buona soluzione. E Pieragusto Stagi, naturalmente l'abbiamo chiamato per parlare di ciclismo, per parlare di uno dei grandi shock settimanali. Già ieri abbiamo accennato all'argomento con il vice direttore della Gazzetta dello Sport Franco Arturi e con diversi ascoltatori che sono sicuri anche oggi vorranno intervenire su questo tema, perché è bene parlarne. E sono le esternazioni di Ettore Torri, procuratore nazionale antidoping, che sono state come martellate. La tua posizione qual è? Ma la mia posizione, la premessa, ma non è da, diciamo, da ruffiano, quello che deve comunque mettere un po', deve indorare la pillola. Però innanzitutto Torri in questi anni ha fatto e sta facendo un lavoro egregio, quindi gli dobbiamo veramente molto. Se anche ad esempio il caso Valverde, questo scandalo, perché così è stato e così va considerato e ricordato, che la Spagna sportiva ha perpetrato per anni, se non ci fosse stato il CONID, se non ci fosse stata la procura antidoping, se non ci fosse stato Ettore Torri, un atto di giustizia non sarebbe stato compiuto. Detto questo, io credo che però, non so cosa sia successo a un uomo di esperienza, di buon senso, di grande sensibilità come quella che ha il capo della procura Ettore Torri, ha fatto un'uscita non da lui, perché sì, questi veramente ormai l'hanno scritto tutti, ripetuto più volte, veramente discorsi da bar che fanno certamente rabbrividire, che comunque fanno pensare, che fanno discutere, come giustamente tu non stai facendo cadere la cosa, però innegabilmente a livello formale è stato compiuto certo. un atto chiamiamola, molto, molto grave. Chiamiamola magari frustrazione da parte di un uomo che comunque forse ci credeva, è il caso di usare il passato nella lotta al doping. La verità è che secondo me Ettore Torri in un momento appunto magari di frustrazione purtroppo ha detto quello che molti pensano, perché la verità è questa. E io vorrei sentire anche la voce di un campionissimo, ma soprattutto del presidente dell'Associazione Internazionale dei Corridori, Gianni Bugno. Ciao Gianni, grazie. Ciao a te, mi pure allora. La tua posizione personale e la posizione dell'associazione su queste parole. Sicuramente io appoggio il volere dei corridori, che è appunto quello di manifestare proprio un atto di dissociazione da quello che è stato detto da Torri. Per quanto riguarda quello che tu dicevi, è vero che il ciclismo magari ha avuto dei casi positivi e tutto quanto, però è anche vero che il ciclismo sta lottando su questi casi. Il problema del doping non è un problema solo del ciclismo, è un problema dello sport in generale. Il ciclismo è quello che sta pagando in prima persona. Ma tu credi che Torri ha detto con gli strumenti che abbiamo non riusciamo, è come correre con la bicicletta contro una moto, non riusciamo a star dietro alle evoluzioni del doping? Questo è un discorso abbastanza vecchio, tu credi che sia così? Ok, ho capito, io sì, questo lo capisco, però non capisco perché solo contro il ciclismo e non contro lo sport in generale. Se c'è un problema di doping è un problema di tutti gli sport. Il ciclismo si è prestato per lottare contro il doping, sta facendo per lottare contro il doping, è il primo che paga contro il doping. Gli atleti sono quelli che supportano di più rispetto ad altri, ci sono più rispetto ad altri atleti il problema del doping. Sono stati i primi a fare il controllo del sangue, sono stati i primi certo. a fare il codice etico, il passaporto biologico, certamente. Sono cose che però si dice, ma perché noi monitorati 365 giorni l'anno e ci controllano sangue, le urine, i capelli, tutto quanto, e gli altri invece tutti bravi, tutti santi? Non credo che sia così da questo punto di vista, Gianni. Il problema si riassume però, e lo giro anche a Pieragusto Stagi in una parola sola, di fronte al grande pubblico, Pieragusto, perché sono d'accordo sul fatto che queste esternazioni di Torri siano state altamente inopportune, però la parola intorno alla quale gira tutto quanto è questa: credibilità. Pieragusto. Sì, certo, è logico che siamo spalle al muro, no? Uso il plurale perché mi sento della famiglia del ciclismo. Quindi siamo spalle al muro perché, come ha detto Gianni e l'ha ricordato giustamente, il ciclismo in questi anni, per affrontare un'emergenza, si è prestato e si è messo a disposizione anche della scienza buona, che è quella dell'antidoping, per dire scrutateci. Il problema è che questo sta diventando anche un'autorete. Certo che il ciclismo saranno anche un popolo di zucconi che non capiscono che bisogna piantarla col doping, ma è altresì vero che è l'unica specialità che viene guardata con la lente di ingrandimento, perché io ribadisco, il mondiale di nuoto, con tutto il rispetto che ho per i campioni del nuoto, hanno fatto l'esame dell'urine, nel tanto citato di sport di grandi valori umani, di rugby, fanno solo le urine, in qualsiasi, non c'è nessuno che fa esame sangue, l'esame incrociato sangue-urine, nessuno ha il passaporto biologico, nessuno risponde o rispondono da quest'anno, non so fino a quando, al protocollo Adams, dove ogni corridore deve costantemente dichiarare dov'è, perché in qualsiasi momento i controlli del CONI, del CIO, della VADA possono venire a prendere. Se Gianni Bugno, corridore, decide di fare una settimana a Gressoney con sua moglie e suo figlio, deve comunicare con un FAS via FAS dicendo: io per quella settimana, dal giorno al tal'altro, sono all'hotel tale e quindi può essere reperibile lì. Sì. Queste cose lo fanno i ciclisti, sta diventando comunque anche un'autorete, perché in realtà loro si prestano, vengono trovati, ahimè, però allora a quel punto io dico, questo è un mio pensiero, proviamo a dire, da domani io dico benissimo, da oggi noi non facciamo più facciamo gli esami solo delle urine. Sì. Sai che trovi un decimo di quello che trovano adesso? Il ciclismo diventa immediatamente pulito. Non c'è dubbio. Quindi in realtà il ciclismo è sporco perché viene controllato, non fatevi più controllare, e così non vi, non, il, ciclismo diventa immediatamente pulito. Sì, però tornando a Torri, il problema non è tanto così, non avevo finito prima il discorso, è gravissimo, perché è un giudice, si è delegittimato, il signor Torri o il presidente del CONI deve chiedere le dimissioni, non può più star lì, perché qualsiasi atleta, se Piero Augusto Stagi domani viene giudicato sospetto, io quella porta non la varco, al mio avvocato chiedo che venga ricusato il signor Torri, perché non ha più credibilità, perché ha un pregiudizio nei confronti dei ciclisti, che sono tutti dopati, che peraltro è una sciocchezza, perché questo lo garantisco, il ciclismo ha tantissimi corridori che probabilmente fanno ricorso al doping, ma io voglio credere e credo che almeno il 10% sono puliti, e noi per quel 10% dobbiamo lottare, mi dispiace. Ma non è tollerabile, perché se Torri dice quelle cose le dice veramente in maniera veramente da discorsi del bar. Poi mi porta le prove. Voglio sentire anche Gianni Bugno su questa ipotesi. Gianni, dovrebbe dimettersi Torri secondo te? Ma io sono d'accordo con Pier, sono d'accordo con tutti i corridori. Dopo tutte le accuse che ha fatto al mondo del ciclismo, è giusto che o ritratta le cose o si dimette, perché un corridore non può essere giudicato da lui dopo le dichiarazioni che ha fatto. Se poi ci sono dei problemi di doping, non è che bisogna, cioè, siccome si parla anche di doping buono e tutto quanto, non è che bisogna fare le accuse agli atleti, bisogna andare direttamente alle case farmaceutiche che fanno questi farmaci, bisogna dire a loro, perché questi farmaci non hanno un tracciante, non hanno un qualcosa. Poi se c'è emotrasfusione bisogna lottare contro chi fa l'emotrasfusione. Sì. Da dove arrivano, cioè, se continui ad andare contro l'atleta, che è l'anello debole della catena, ma non si fa niente contro i medici, non si fa niente contro chi produce certe sostanze, si sta sempre impassibili. Ma neanche contro chi gestisce i team, perché Gianni sai benissimo che da questo punto di vista c'è. Ma io penso che i team seri abbiano capito qual è il problema, anche perché perdono sponsor e tutto quanto. Se c'è dietro qualcuno, bisogna coprire con qualcuno. Non è che l'atleta che fa da solo, non è che si parla della pastiglia comprata in farmacia e si fa. Cioè, qua o dal bar o qualcosa. È un qualcosa di particolare che è fatto sotto banco, fatto da qualcuno di competente. Sì. Da qualche istituto, da qualche... No, beh, certo, e allora certo. Bisogna colpire questo. Cioè, non pensare solo che è l'atleta colpevole di tutto quanto. L'atleta serve per colpire quel qualcuno. E c'è un grande business. Sempre stato colpito sempre l'atleta, ma mai quel qualcuno. C'è un grande business dietro questo, e lo sappiamo benissimo. Non è una cosa amatoriale quello che avviene intorno ai corridori. Non è assolutamente una cosa amatoriale. Vi chiedo ancora questo invece, un altro grande tema di discussione. Riguardo alle pene, sarebbe legittimo dire, ne abbiamo parlato tante volte, no? Anche con te Piero Augusto, sarebbe legittimo dire... Benissimo, è così, il doping c'è ancora, tu stesso hai detto può essere per alcuni atleti un grande affare ricorrere al doping, se si ricorresse alla radiazione, prima volta in cui ti beccano dopato con analisi, controanalisi, tutto quello che vuoi, non ci sono più dubbi a quel punto, che facciamo? Torni a correre dopo 2 anni o non corri più? Piero Augusto. Io a questo punto, nonostante magari qualcuno possa... dire che sono troppo buono con il ciclismo, in realtà sono assolutamente esasperato e dico che a questo punto la radiazione è una necessità, perché con 2 anni non risolvi nulla, perché il gioco vale la candela, perché un'altra cosa da sfatare è che i corridori non guadagnino, i corridori, guarda, prendiamo Alberto Contador, un uomo da 4 milioni di euro, tu gli dai 2 anni, certo si distrugge l'immagine, ma tra 2 anni lui tornerà e ci sarà qualcuno che gli offrirà perlomeno 1 milione, 2 milioni di euro ancora per tornare a correre, e quindi non è la fine del mondo. Tu vuoi veramente debellare, vuoi veramente mettere anche in difficoltà quelle figure terze di cui che faceva riferimento Gianni, quindi tu devi mettere nelle condizioni che intanto il corridore cambia mestiere e va via. Sì. E poi agire in maniera forte anche su questi faccendieri, che però sia ben chiaro, una volta che tu li hai anche fatti fuori, diciamo a livello sportivo o dall'associazione medica, rientrano dalla finestra. Ma poi tra l'altro rimangono iscritti all'ordine dei medici, lì la bellezza della cosa. Sì. No, non c'è, quindi, questo lo sappiamo, questo è un altro aspetto. Il discorso discorso è ampio e variegato e quindi potremmo stare delle ore, poi ognuno difenderà i suoi, diciamo, però ci sono dottori, medici radiati dalla Federazione Ciclista Italiana, radiati dal CONI, non possono più frequentare ambienti sportivi, ma sono medici che sono medici che praticano la professione, dunque comunque alla fine i loro soldi li prendono da un'altra parte e i loro affari li fanno in un altro modo e continuano esattamente a fare quello che hanno sempre fatto. Gianni, per chiudere, radiazione o no dal tuo punto di vista? Allora, radiazione può anche far bene, nel senso che bisogna vedere anche la pen, cioè uno per cosa colpevole. Il problema qual è? Che adesso i corridori dopo 2 anni tornano a correre, vengono inseriti in una squadra, la squadra non sa se può correre, il corridore non sa se può correre, e questo è quasi dire dargli una radiazione. Quindi bisogna decidere se il corridore prende 2 anni, deve tornare a correre con la squadra e deve tornare a correre tranquillamente perché ha scontato la rapina. Se deve esserci in questa circostanza che un corridore deve scontare un purgatorio, a quel punto lì è come dire dargli una condanna, dargli una radiazione. Bisogna decidere, qui è l'UCI che deve decidere cosa vuole dare. Sì. Se è una condanna, è una condanna, anche gli organizzatori naturalmente e di conseguenza le squadre. Se io prendo un corridore che è stato trovato positivo, devo tornare a correre con questo corridore dopo 2 anni perché lui ha scontato la sua pena. Sì. Se però devo scontare un purgatorio, a questo punto... A questo punto, questo è chiaro. Io ti dico la verità: io sono sulla posizione di Pier Augusto Stagi perché 2 anni di squalifica. Se poi uno torna e. Attenzione, però, in funzione della pena, in funzione di quello che lui è stato trovato, perché non è che bisogna dare una condanna, una radiazione per un fatto concreto, piuttosto che magari con un fatto che non ha rilevanza. Attenzione, uno può anche sbagliare. Certo. Bisogna una graduazione delle pene è scontata. Certo, se uno me lo becca per epo è ovvio che c'è la radiazione. Ma in quel caso beccato per epo con analisi contro analisi, io sono dell'idea che la radiazione sarebbe la pena corretta, ma in primo luogo per la parola magica di cui sopra, credibilità, e in secondo luogo perché a quel punto uno fa i conti. Ma se dopo 2 anni posso tornare, può essere anche un affare ricorrere a queste sostanze. Se poi devo tornare a certe condizioni, che posso correre, non correre, la squadra mi prende, non mi prende, diventa quasi una radiazione. Cioè uno deve capire se i 2 anni sono 2 anni, se i 2 anni diventano 3, 4, 5, dipende un po' dalla pena che ha. Cioè, e lì deve essere chi fa le regole che deve decidere cosa fare in funzione anche parlando anche con gli organizzatori e con le squadre. Cioè io un corridore lo trovo positivo, benissimo, cosa facciamo? Gli ho 2 anni o do radiazione? Perché se dopo 2 anni questo non può andare più a correre o deve essere preso una squadra piuttosto che un'altra perché deve scontare il purgatorio, a quel punto lì vuol dire dare al corridore una radiazione. Io difendo il corridore che ha scontato le sue pene e deve tornare a correre. Questo è chiaro. Con le leggi attuali, uno che ha scontato la sua squalifica poi deve tornare a correre senza ulteriori periodi di purgatorio in cui non può correre grandi giri, in cui non viene invitato, eccetera, eccetera, eccetera. Questo ci sta assolutamente. Io ringrazio Gianni Bugna e Pier Augusto Stagi. La discussione è molto, molto pesante, molto interessante, ma credo ci saranno anche degli ascoltatori che vorranno intervenire più tardi. 800 24 00 24. Intanto l'Italia ha vinto il terzo set della pallavolo e si gioca il quarto. Siamo ancora in corsa per la medaglia di bronzo. A dopo. State per sentire 299 cavalli al massimo della loro potenza. Oggi 299 cavalli di Lexus RX 450H Full Hybrid pesano solo 140 grammi di CO2 nella nuova versione a trazione anteriore. E con full leasing di Lexus Financial Services, RX può essere tua a 440 euro al mese. TAG 7,35%. Fogli informativi in concessionaria. Le scuderie del Quirinale ti invitano a visitare la mostra 1861, i pittori del Risorgimento. La storia dell'unità d'Italia raccontata nei capolavori di Fattori, Hayez, Induno e tanti altri. 1861, i pittori del Risorgimento, dal 6 ottobre al 16 gennaio 2011. Info scuderiequirinale.it. Possiamo far crescere le imprese ed essere solidali. Possiamo essere banca e aiutare i più deboli. Questa è Mediolanum. Attraverso la Fondazione Francesca Rava diamo un mese di scuola a un bambino di Haiti per ogni nuovo conto Freedom. Per le condizioni potete leggere i fogli informativi su bancamediolanum.it. È chiaro, vogliamo dare il massimo ai clienti. sono Ennio Doris. Questo spot è un messaggio chiaro. Possiamo crescere tutti insieme. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Ciao, sono Don Mazzi. È cominciata la scuola e i nostri figli passeranno un anno intero sui banchi. Perciò ho scritto un libro dedicato a loro, ai genitori, alle maestre, ai professori, ai bidelli, perché di scuola si muore, si vive, si spera, si discute, ma non si molla mai. Di scuola si muore, di Don Antonio Mazzi, secondo volume della collana Essere Genitori, con Famiglia Cristiana, a 6,90€ in più. Maga, se veramente sei una maga, leggimi il futuro. Vedo che domani potrei viaggiare in treno in tutta Italia a prezzi scontati. Sì, magari si potessero avere sconti comprando con un solo giorno d'anticipo. Con Trenitalia è possibile, a partire da soli 19€. Non ci credo. Guarda tu stesso. Dove? Nella palla di vetro? No, su ferroviedellostato.it. Promo autunno Trenitalia. Viaggi in seconda classe a prezzo scontato in tutta Italia, prenotando fino alla mezzanotte del giorno prima. Promozione a posti limitati, acquistabile in tutti i canali di vendita, valida per i viaggi entro l'11 dicembre. Cogli l'occasione. Sali a bordo di Trenitalia. 4x4 Fest, Salone Nazionale dell'Auto a Trazione Integrale, a Carrara da venerdì 15 a domenica 17 ottobre. Auto fuori strada, accessori, test drive, eventi, competizioni e spettacoli. Al 4x4 Fest di Carrara Fiere, da 10 anni, la passione è integrale. Info 0585 78 79 63, 4x4fest.com. C'è chi lo chiama seggiolone, chi invece sediolone, chi sedia e basta. Per noi invece è solo Lulu, la sedia che diventa grande con il tuo bambino. Da Foppa Pedretti, Lulu fa tutto quello che vuoi tu. Pochi secondi alla partenza su questo circuito davvero impegnativo. Ma che succede? I piloti scendono dalle auto e vanno in bicicletta! Non è detto che per lavorare in sicurezza si debba rinunciare alla competitività. Scoprilo nei seminari SIS, Sviluppo Imprese in Sicurezza, organizzati in tutta Italia da Confindustria, INAIL, Fondirigenti e Federmanager. Una nuova cultura della sicurezza come risorsa per lo sviluppo. Vieni in Confindustria a scoprire come si fa. A Bologna venerdì 15 ottobre, Sviluppo Imprese in Sicurezza. E finalmente si torna in gara! Info su confindustria.it. Grazie alla ricerca ENI, scende in pista la benzina del domani. 26 team e 17 gran premi per metterla alla prova e darvi il massimo delle prestazioni. ENI, fornitore esclusivo di carburante per la Moto 2. Ornella Vanoni, live al Blue Note. Sento crescere la voglia, la pazzia. Emozionatevi con il suo live più bello. Ornella Vanoni, live al Blue Note, 2 CD. A prezzo speciale. A tempo di sport. Dunque, con il coltello tra i denti, l'Italia ha vinto 28 a 26 il terzo set, mentre la Serbia aveva vinto i due precedenti, dunque siamo 2-1, ancora in lizza e ancora in corsa per la medaglia di bronzo mondiale. Si sta giocando ora il quarto set. A questo punto non mi resta che sperare che la partita sia il più lunga possibile, quindi non mi resta che sperare di non riuscire a darvi il risultato finale entro la fine di questa trasmissione alle 19. Quindi contro i miei interessi, però spero davvero che non sia ancora finita alle 19 questa partita. Dunque c'è chi scrive: la radiazione equivale alla pena di morte, voi siete favorevoli alla pena di morte? Io no, 5 anni sarebbero più che sufficienti, business o non business. Allora, se sono termini piuttosto brutti, non sarò mai favorevole alla pena di morte, però se vogliamo stare su questo piano, il ricorrere al doping equivale all'omicidio sportivo, no? Alla truffa più grave. Si tratta di intendersi, insomma, mi sembrano paralleli un po' antipatici da fare e che non andrebbero evitati. Io resto dell'idea che innanzitutto non ci sia parità di trattamento, e questo è vero, l'abbiamo detto anche prima con Gianni Bugna per Augusto Stagi, parità di trattamento tra il ciclismo e gli altri sport dal punto di vista dei controlli, mentre la legge è la stessa. Quindi da un lato abbiamo delle forze di polizia, se vogliamo rimanere su questo territorio un po' antipaticotto, abbiamo delle forze di polizia massicce intorno al ciclismo, dall'altro lato invece siamo agli steward o quasi, da un lato. Dall'altro lato, insomma, sarebbe anche il caso di domandarsi se il doping per un corridore è, anche in termini economici, un affare oppure no. Con il sistema attuale rimane un affare. È brutto dirlo, ma è così. Francesco da Bologna, Giancarlo da Milano. Buonasera. Francesco. Buonasera. Da chi parto? Da Francesco, insomma. Buonasera, okay, Francesco. Grazie. Dica. Io volevo fare un appunto, cioè a Gianni Bugno, però nulla di personale. L'espressione che ha usato, cui il farmaco o i farmaci, bisognerebbe, come dire, colpire anche l'azienda che le produce. Io lavoro in ambito farmaceutico, quindi mi sento parte in causa. Guardi, secondo me più che l'azienda che lo produce, il sistema che c'è dietro, quindi sì, però, i medici che forniscono, perché sappiamo bene come non è che i corridori vadano in farmacia a comprarsi le pastiglie loro, o a comprarsi le fiale da iniettarsi. Cioè, le aziende producono questi farmaci naturalmente per... sono farmaci in alcuni casi antitumorali, sono farmaci, inutile stare a fare della farmacologia, lo saprà meglio di me, sono farmaci che vengono prodotti per ben altri usi e ben altri impieghi. Quindi non è impossibile colpire un'azienda che fa questo lavoro, per lo fa per i pazienti che sono malati, ecco. Purtroppo bisognerebbe colpire chi usa l'arma, non chi produce l'arma, sì. In questo senso chi usa la pistola per uccidere, ecco. Sì. Quindi non è, ecco, giusto per puntualizzare l'espressione. Questa puntualizzazione è corretta, Francesco, non c'è dubbio. D'altro. Non c'è dubbio che sia corretta questa puntualizzazione, perché è chiaro che le aziende producono certi l'epo, la cera per i malati, per le persone che hanno serie malattie, che non c'entrano, sono cose che non c'entrano nulla con lo sport o con il ciclismo, ecco. Quindi non, il discorso mi pare chiaro in questi termini. Giancarlo da Milano, buonasera. Buonasera. Niente, volevo intervenire su due punti. Uno riguarda ieri sera. Avete parlato di alfabetizzazione motoria legata alla pallavolo, questo non è assolutamente vero, nel senso che... Ma chi? Non mi ricordo adesso chi di voi, stavate parlando della pallavolo che aveva portato l'alfabetizzazione motoria nelle ragazze. Questo non è vero, perché generalmente, non solo per la pallavolo, si parla solo di tecnicismo, non di alfabetizzazione motoria. Vabbè, chiudiamo la parentesi, mentre sì. Invece per il doping... Io sono un preparatore atletico, so per certo che secondo me non si può parlare di omicidio, si parla di suicidio, nel senso che chi lo fa sa perfettamente quello che sta facendo. Sì. Ed è il male che si sta facendo, per cui è tutta l'organizzazione da condannare, oltre l'atleta in sé. Sì, però so, stiamo parlando di omicidio dello sport, insomma, adesso stiamo usando anche dei termini che hanno poco senso, sì. Che non sono nemmeno simpatici, omicidio, suicidio, pena di morte, sì, sono esatto. Cose che eviterei, però per dare il senso, no? Persone che vanno per 250 km a 44 km all'ora, capisco benissimo che c'è qualcosa che non va, no? Anche se per me vale il concetto della presunzione di non colpevolezza. Quindi io non sono d'accordo sul fatto di dire ma lo sappiamo, ma lo fanno tutti. No, me lo dimostrate, no, riprendete, no, poi mi dite d'accordo. Che lo fanno tutti. No, infatti, però sono d'accordo su quello che avete detto prima, io devo salvaguardare quel 10-20% che non lo fa. Sì. Questo sperando che sia magari anche un 40 o un 50. Esatto. Però, per esempio, io sono un atleta master, so di atleti master beccati che facevano i doping, sì. Per cui il problema è un po' più vasto. Sicuramente, secondo me, non bisogna fare la discriminazione fra ciclismo e gli altri, dovrebbero fare tutti quanti le analisi del sangue, perché siamo ad un livello talmente alto di doping che ormai gli esami delle usine non bastano più. Sì, sì. Come dicevo prima, essendo la legge uguale per tutti, anche i controlli, quindi anche le forze di polizia dovrebbero essere uguali per tutti, mentre così non sono, e lo sappiamo benissimo. Dunque, vale anche il discorso. Come? Le pene non sono uguali per tutti. Io, un ciclista becca 2 anni, non so se in altri sport gli danno 2 anni per lo stesso motivo, gliene danno molti meno probabilmente. Ma resta il fatto che comunque anche con 2 anni in questo stato di cose, certo, perché il gioco vale la candela, perché uno... No, ma anche perché almeno è stato quasi dimostrato che dopo 2 anni il doping ha ancora il suo effetto, nel senso che io sono ancora forte per il doping, non per le mie capacità, per cui bisognerebbe un po' allungare i tempi. Posso dare per certo, stanno studiando queste cose qui su atleti di atletica leggera, io conosco abbastanza leggera, è stato dimostrato che chi dopo 2 anni il doping ha ancora il suo effetto positivo negativo, diciamo. Sì. La ringrazio Giancarlo. Io resto della mia idea, cioè che la radiazione, adesso senza tornare a usare tutte le parole che abbiamo usato prima, la radiazione potrebbe essere veramente qualcosa di rivoluzionario nella lotta al doping, perché a quel punto, torno a ripetere, per un atleta professionista, non voglio dire solo un corridore professionista, però per un atleta professionista, a quel punto il gioco potrebbe non valere più la pena, non valere più la candela dal punto di vista strettamente economico, perché la buttiamo lì sui soldi. Mentre la Serbia sta prendendo il largo nel quarto set, nel quarto parziale, 2-1 per la Serbia, 16-7 in questo quarto set. Ci fermiamo un attimo per il traffico e poi voglio parlare ancora un pochino di mercato, di calcio mercato. A dopo. Strade in diretta. Traffico di rientro verso tutte le grandi città con lavori e incidenti che causano code particolarmente lunghe. Sono lunghe le code per lavori sulla 15 della Cisa verso Parma, per 7 km da Ulla a Berceto, per altri 4 da Borgotaro fino a Fornovo. Per un incidente i 2 km di coda sulla 22 del Brennero verso Modena tra Reggio Lorolo e Carpi. Lunghe le code per lavori sulla 4 Venezia Trieste verso Venezia tra San Giorgio di Nogaro e La Tisana. Le code in direzione Milano sulla 9 la Inate Como Chiasso partono da Turate e sono causate da un cantiere e da un incidente, ed è un incidente che ha reso necessaria la parziale chiusura della tangenziale est di Roma verso la Salaria tra via dello Scalo di San Lorenzo e piazzale della stazione Tiburtina. Sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare di Roma ci sono code a tratti dalla centrale del latte fino all'Appia. Noi torniamo tra mezz'ora. A tempo di sport. Dunque, per la cronaca, Siena 28, Montepaschi Siena 28, Virtus Bologna 26. Nella apertura ufficiale della stagione del basket è la Supercoppa di Lega. Tra una settimana comincerà il campionato di Serie A e noi saremo qui a raccontarvelo ogni domenica dalle 8:30 alle 9. Dunque riprendiamo le nostre serate con i canestri da domenica prossima. Intanto io vorrei tornare invece al discorso dei fantasmi. Sempre il solito fantasma, quello di Kakà. E allora vorrei un'opinione di uno che non si sbaglia quasi mai. Carlo Laudisa, inviato della Gazzetta dello Sport. Ciao Carlo. Ciao a tutti, buonasera. Si materializzerà a Milano questo fantasma Kakà oppure no, secondo te? Si è già materializzato, visto che siamo, tra virgolette, costretti a parlarne da un po' di giorni. Sì. È presto. Perché ci sono tanti segnali che potrebbero far pensare a un discorso effettivo. Io parlerei sempre dell'estate, perché nel mercato di gennaio non entrerei nel merito, perché come sappiamo Kakà, se tutto va bene, rientrerà a dicembre, sì, dal suo infortunio al ginocchio. Poi vedremo come sta con il resto, perché non dimentichiamo sempre che ha sofferto molto per la pubalgia. Certo. Quindi una volta rientrato bisogna vedere quale sarà la reazione di Mourinho, se effettivamente lo farà giocare, se lo sarà in grado. Quello che sappiamo è che lui certamente non vuole uscire sconfitto dalla battaglia di Madrid, quindi se la giocherà fino a giugno, poi si vedrà. La cronaca dice che l'unica società che l'ha cercato, l'unico allenatore che l'ha cercato, è Carlo Ancelotti, sì, che lo voleva anche prima del mondiale, quindi prima dell'infortunio. E certamente fra i due il feeling è chiaro. Poi ci sono tutte le altre voci che parlerebbero di un suo ritorno a Milano, sponda nell'azzurra, sponda rossonera che sia, ma su questo c'è solo un'aspettativa legata anche, secondo me, molto romantica, da un lato quella dei rossoneri, del dispetto da parte nerazzurra se effettivamente prevalesse questa idea. Io al momento non ho segnali che mi dicano che ci sia un progetto per riportare Kakà a Milano. Tu quest'estate mi dicesti, in tempi non sospetti l'Inter non compra nessuno, quando invece, venduto Balotelli, sembrava sul punto di prendere Kaito, Mascherano o qualcun altro, insomma. Non ha preso nessuno, poi alla fine avevi ragione, come molto spesso succede. A gennaio l'Inter prenderà qualcuno, soprattutto là davanti, perché c'è anche il fantasma di Balotelli, lo dicevo prima, che fa le linguacce quando c'è bisogno di cambiare il ritmo alle partite, quando c'è bisogno di un attaccante, quando restano Coutinho e Biabiani nei momenti di difficoltà. Guarda, l'ultimo sondaggio, che è di due giorni fa, non vendo chiacchiere, è negativo, perché in società non sono arrivati input differenti da quelli che erano in estate. Per cui io credo che Moratti e chi lavora per lui, un particolare Branca, stanno aspettando di valutare effettivamente anche il peso, e non uso questa espressione a caso, sì, di Cutigno e Biavagni per vedere se effettivamente sia necessario o meno. Al momento non c'è un input per andare sul mercato, però in questo caso è tutto in corso d'opera, perché c'è una stagione che evidentemente è in pieno corso e quindi ci sono stati tanti infortuni, ci sono delle gerarchie anche tecniche, certo, che potrebbero anche cambiare, e quindi in questo caso non sarei così netto nel dire che a gennaio non accada nulla. Carlo, ti ringrazio, grazie davvero, grazie a te, sempre un piacere. Tutto mio, un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie a Carlo Laudisa. Serbia 20, Italia 14, siamo nel quarto set, la Serbia conduce 2-1, Italia 15 in questo momento, quindi Italia che prova a rimanere aggrappata alla speranza quantomeno di una medaglia di bronzo mondiale, in attesa che poi stasera Cuba e Brasile si giochino il titolo iridato, si giochino l'oro a Roma alle 21. Io volevo chiudere ancora qualche minuto, e posso farlo chiedendo un commento alla giornata motoristica che è stata particolarmente intensa. Prima ne avete parlato con Massimo Di Scienza dalle 4:30 alle 5 come ogni domenica, però io non mi alzo di qui senza aver sentito il professor Poltronieri. Ciao Mario. Ciao Carlo, buonasera a tutti. Dunque, da dove vuoi partire? Da Lorenzo che vince il titolo a Valentino Rossi che dice vittoria numero 46 con la Yamaha. Ah, ci avevo giusto pensato, adesso vado a casa e chiudo questa storia. Oppure dal Tour de Force giapponese, prove e gara nello stesso giorno e Red Bull che rialza la testa, anche se Alonso rimane lì aggrappato, A paraurti. Tutto sommato, che forse possiamo cominciare da Valentino e Lorenzo, perché Valentino è stato eccezionale, perché ha perso parecchie posizioni in partenza, è rimontato con una velocità eccezionale e si è portato subito al terzo posto, dopodiché è riuscito a battagliare con Dovizioso, che io ho trovato molto più tranquillo dopo che ha avuto la conferma che farà parte della squadra Yamaha, della squadra Honda l'anno 21, mentre invece Lorenzo, dopo lo scontro che c'era stato nella gara precedente, ha deciso che era meglio andare tranquillamente per poi godere giustamente quando è arrivato a vincere il campionato. Ecco, tieni presente che nel campionato anche Tony Elias ha vinto quello del Moto2 e spera che questo gli possa servire per ritornare in MotoGP. È stata una gara sicuramente faticosa, perché Valentino non l'ho mai visto così stanco. Sì. E passando alle quattro ruote, se sei d'accordo. Ma certo, 220 contro 206. 220 sono i punti di Marco Ebber, che oggi è arrivato secondo. 206 sono i punti di Vettel, che ha vinto, e di Alonso, che è arrivato terzo. Infatti, e adesso si tratta di vedere. La prima incognita è: si risolve domani mattina nel pro o contro, perché devono omologare il circuito della prossima gara, cioè della debuttante Corea. Se succedesse che il circuito non dà garanzia sufficiente di tenuta, può darsi che salti la gara. E questo non giocherebbe evidentemente a favore di Alonso, il quale nelle valutazioni di oggi, del pomeriggio, viene visto abbastanza favorito, perché i successivi due circuiti dopo la Corea, e cioè il Brasile soprattutto, ma anche Abu Dhabi, dovrebbero essere più favorevoli alle Ferrari, anche se la Red Bull oggi ha dimostrato, in un circuito che viene considerato impegnativo come quello di Spa, diciamo, anche se di caratteristiche differenti, la Red Bull ha dato la sensazione di una superiorità, non dico schiacciante, ma evidentissima. Sì. Quindi rimane la favorita secondo te per questo titolo mondiale, fatto che c'è un Alonso che non molla? No, se facciamo una valutazione sui piloti, io ritengo che Alonso abbia qualcosina in più rispetto agli altri. È freddo come è Webber, ma Webber non ha la sua tecnica. Vettel ha senza dubbio l'entusiasmo, capacità eccetera, ma è un po' vulnerabile, mi pare, in quest'ultimo periodo va a corrente alternata. Sì. E tutto sommato gli rimane sempre in testa questo fastidio dell'avversario diretto. Certo, perché per lui, certo, l'avversario è Weber, perché lì al di là delle chiacchiere è chiaro che Massa oggi è andato fuori al primo giro e vabbè, non ha più tanta voglia, diciamoci la verità, ha tanta voglia di aiutare il suo compagno di squadra a vincere il mondiale. Dall'altra parte però è anche vero che sono due galli che si beccano in continuazione, dunque potrebbero anche creare qualche impasse all'interno della Red Bull, che meriterebbe comunque il titolo mondiale alla fine. Ma dopo quello che è successo oggi, che chiaramente dimostra, primo, che come solito i circuiti i regolamenti sono fatti in modo che la prima curva diventa molto importante. Sì. E secondo, che lui evidentemente è un pochettino più ruento del necessario, per cui appunto ha fatto fuori Liuzzi. Prima c'era stato lì, insomma, la gara è cominciata con sei giri di safety car, certo, perché c'è stato praticamente quattro sono usciti nel primo giro, nei primi metri della corsa, fermata della Renault. Certo, certo. Perché c'era stato anche questo secondo posto in partenza preso da Kubica, che avrebbe potuto animare un po' la gara, invece poi è stata tutta una cosa, diciamo, secondo le previsioni. Secondo le previsioni è molto, molto tattica, come dovremo abituarci a vedere gare tattiche da qui fino alla fine, io credo. Grazie Mario. A te, buonasera a tutti. Grazie a Mario Poltronieri, con il quale chiudiamo per la verità con una pessima notizia, perché è della Serbia la medaglia di bronzo ai mondiali di pallavolo, 25-19 nel quarto set che si è ora concluso, dunque Serbia batte Italia 3-1, la Serbia di bronzo. Questa sera per loro ci sono Brasile e Cuba alle 21. Grazie a Giorgio De Luca per il lavoro in redazione, parlo Paolo Corleoni in regia. Per quanto mi riguarda ci sentiamo venerdì con Palla Spicchi e dalle 14 domani dalle 2 c'è Gigi Garanzini. Buona serata. A tempo di sport.